Germano Cremici, appunto il nostro libro, Il falsario, la lotta quotidiana contro Satana, e abbiamo iniziato il capitolo settimo, intitolato, il capitolo settimo dedicato alla vittoria di Cristo su Satana. Poi anche nel capitolo ottavo continueremo a parlare di questa vittoria, nel senso che Gesù si è associato a Maria. Quindi capitolo ottavo, la Vergine potente contro il male, vedremo appunto come la promessa dell'Eden, cioè inimicizia porrò fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe, e la stirpe della donna ti si accerà la testa, come si è avverata in Gesù Cristo e in Maria la nuova Eva. Abbiamo visto, cari amici, la prima grande vittoria di Cristo sul demonio nelle tentazioni del deserto. Questo tema delle tentazioni del deserto noi lo analizzeremo molto in esteso più avanti nel nostro libro. Cioè, noi adesso stiamo esponendo la parte dottrinale, o teologica, più propriamente teologica, che riguarda il demonio, quindi la sua esistenza, la sua natura, i suoi limiti, la sua sottomissione a Dio, la sua sconfitta, eccetera, no? Però la parte più interessante, potremmo dire, che è il combattimento spirituale, che è la parte dedicata alla spiritualità, la vedremo molto più avanti quando parleremo della tentazione, e quindi avremo tempo di analizzare le tentazioni, la tentazione dell'Eden, poi quella del deserto, poi le nostre tentazioni della vita quotidiana. Noi abbiamo già visto come Cristo abbia sconfitto il demonio all'inizio della sua vita pubblica, quando in pratica il demonio ha voluto distogliere Cristo dalla via messianica che gli ha indicato il Padre, che è la via della croce. E, come sapete, cari amici, questa tentazione riguarda non soltanto Cristo, ma riguarda anche la Chiesa. Purtroppo anche oggi ci sono in giro personaggi che cedono alle seduzioni sataniche per quanto riguarda la Chiesa, no? Di cui non riescono a comprendere il messianismo crocifisso, di cui non riescono a comprendere la forza della croce, per cui vorrebbero una Chiesa efficiente, una Chiesa come organizzata secondo le democrazie occidentali, una Chiesa organizzata secondo i modelli del mondo, e non si rendono conto che già Satana aveva fatto questa proposta a Cristo, no? Una Chiesa che trasforma le pietre in pane, una Chiesa che incanta, getta di giù dal pinacolo del Tempio e tutti ti applaudiranno, una Chiesa saldata con i poteri del mondo. Molti anche oggi non si rendono conto che si tratta di quella medesima, sia pure in forme diverse, di quella medesima tentazione che Satana rivolse a Cristo, cioè distoglierlo dalla croce. Il mondo e chi ha la mentalità del mondo non comprende la croce, non comprende un messianismo crocifisso, non comprende una Chiesa crocifissa, non comprende un pontefice crocifisso. È la mentalità del mondo, e a questa mentalità e ai portatori di questa mentalità che Gesù ha detto va via lontano da me Satana, rivolgendosi proprio all'apostolo Pietro, che in un momento di tentazione voleva distogliere Cristo dalla croce. Va via lontano da me Satana, disse Gesù a Pietro quando Pietro lo rimproverò, perché Gesù aveva proposto ai suoi apostoli, per se stesso naturalmente, per prima cosa, la via della croce. Quindi nella prima tentazione Satana vuole distogliere Cristo dalla croce, dal messianismo crocifisso, e vuole proporre invece un messianismo dominatore, il messianismo dei potenti, dei forti, dei dominatori di questo mondo. Ora, naturalmente, questa fu la sostanza della tentazione, ma sappiamo da Luca che poi Satana tentò Cristo in tanti altri modi. Dice Luca che Satana provò Cristo con ogni genere di tentazione. E naturalmente queste tentazioni si prolungarono durante tutta la vita pubblica di Gesù, basti pensare ai tentativi che fece la folla, specialmente dopo la moltiplicazione dei panni e dei pesci, il tentativo di proclamarlo re. Ma il grande assalto, il secondo atto, potremmo dire, di questo assalto di Satana a Cristo venne durante la Passione. Questo fu il più grande assalto. Il giardino del Getsemani è paragonabile, cari amici, al giardino dell'Eden. Qui il nuovo Adamo viene assalito con una violenza inaudita dal maligno. Prima là, nel deserto, il maligno tentò Cristo con la seduzione. Qui lo tenta con lo scoraggiamento. Sono i due modi fondamentali della tentazione. Lo scoraggiamento, la seduzione e lo scoraggiamento. Poi vedremo come questa medesima tattica Satana la usi contro di noi. Quindi il giardino dei Getsemani è come il giardino dell'Eden, della grande lotta di Cristo contro il maligno, e tutta la passione rappresenta questo grande attacco di Satana a Cristo. Anzi, la regia della passione è di Satana in un certo senso, perché lui che entra in Giuda propone il tradimento e persegue fino in fondo la eliminazione di Cristo, solo che il superbo accecato non si rende conto che Cristo lo vince proprio con facendo uso del suo piano. Questo è tipico di Dio, anche questo lo impareremo, cari amici. Dio confonde il maligno con i suoi piani, lo uccide, per così dire, con le sue armi. Questo vale per il maligno, ma anche per tutti i suoi seguaci. Dio sconfigge il maligno facendo uso delle sue armi, cioè facendolo cadere nelle trappole che egli tende. E questa tattica Dio la usa anche nei confronti dei seguaci del maligno. Essi tendono le trappole e poi vi cadono perché accecati. Così il maligno, che pensava con la eliminazione di Cristo d'avere conservato il suo potere in questo mondo, proprio con la passione di Cristo viene sconfitto. Ma vedono, cari amici, questo grande duello fra Cristo e Satana, che è terminato con la vittoria di Cristo sulla croce, perché è dalla croce che Cristo ha vinto, è sulla croce che Cristo ha schiacciato la testa al maligno, perché è dalla croce che è venuta la remissione dei peccati e la vita eterna per tutti gli uomini. Allora, ho dedicato appunto questo scontro drammatico, a questo grande duello, un paragrafo del capitolo settimo. Capitolo 6 intitolato La vittoria di Cristo. Vediamo se il terzo paragrafo, il grande duello, quello della passione. Per chi ha il mio libro, Il falsario, siamo a pagina 49. Ed è, cari amici, questo è un nuovo modo per vedere la passione, perché la passione va vista dai due lati della medaglia. La passione esprime da una parte la grande e l'infinito amore di Cristo per noi, tutta la sua santità. In nessuna parte dei Vangeli, neanche quando compie i miracoli, Gesù è così divino come nel momento della sofferenza. Quindi la passione è un'epifania della divinità di Cristo, perché è un'epifania della sua pazienza e del suo amore. Ma nel medesimo tempo la passione è anche un'epifania dell'odio degli uomini e del maligno che li aizza. L'odio e l'amore si sono scontrati in un grande duello e ha vinto l'amore. Dunque scrivo, lo scontro fra Cristo e Satana nel deserto segna l'inizio della vita pubblica di Gesù. Essa si apre con la vittoria del nuovo Adamo sull'antico tentatore. La partita però non è chiusa, infatti Luca dice che dopo le tentazioni, dopo averlo tentato in tutti i modi, Satana si allontanò per accostarsi in un secondo momento, ed è appunto il momento del Getsemani. La partita quindi non è chiusa, l'evangelista Luca ce lo fa notare, affermando che dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da Gesù per ritornare al tempo fissato. Luca 14,4,13. il momento dello scontro decisivo è al termine stesso della vita di Gesù, che si chiude con la sua apparente sconfitta. Cioè, in primo momento sembra che il Satana abbia vinto, e infatti anche gli apostoli, le pie donne, tutti sono rassegnati alla sconfitta, soltanto Maria crede nella resurrezione. Pensate ai discorsi dei discepoli di Emos, che esprimono lo stato d'animo appunto dei discepoli di Cristo. Dice: noi credevamo che lui fosse il liberatore di Israele. Quindi la vita di Gesù termina con l'apparente vittoria di Satana e con l'apparente sconfitta di Cristo. È sempre Luca a riportare le parole di Gesù nel momento tragico del Getsemani. Il maestro ha appena invitato i tre discepoli che erano con lui a vegliare e a pregare per non cadere in tentazione. Quindi è il momento della tentazione. Il Getsemani è il momento della tentazione. Cristo veglia e prega per non cadere nella tentazione dello scoraggiamento. Però scoraggiamento non dice lo spessore della tentazione, però insomma bisogna vedere con quale parole gli evangelisti descrivono questa tentazione che è terribile. Gesù stesso sa che la tentazione non riguarda lui soltanto, ma anche i suoi discepoli. Gesù l'aveva predetto dicendo: Satana vi vaglierà uno a uno, ma io ho pregato per te, Pietro, affinché tu, dopo che ti sei ripreso dalla caduta, possa confermarne la fede dei tuoi fratelli. Quindi il Getsemani fu un momento della tentazione di Cristo e anche dei discepoli. Getsemani è la passione. Il maestro ha appena invitato i tre discepoli che erano con lui a vegliare e a pregare per non cadere in tentazione, mentre egli, in preda alla più grande angoscia, sudava sangue. Quindi in preda alla più grande angoscia, vedete come l'assalto demoniaco prostra e crea situazioni di grande angoscia. Uno non sa neanche perché i motivi di questa angoscia, è come distrutto da questa cappa di piombo satanica. Gesù è in preda a grande angoscia, sudava sangue. Quindi il sudore di sangue indica l'intensità dell'angoscia e quindi della tentazione. Tentazione di scoraggiamento. Poi qui i mistici hanno dedicato pagine straordinarie. A noi interessa intanto sottolineare che il Getsemani rappresenta il culmine della lotta fra Cristo e Satana. Questo è certo. Vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Gesù suda sangue e supplica il Padre che, se fosse stato possibile, di allontanare il calice amarissimo dalla passione. Quindi Satana vuole distogliere Cristo con lo scoraggiamento stavolta. Lo vuole distogliere dalla passione. Il clima è di grande oppressione. La cappa di piombo del regno del male incombe. Cioè il regno del male ha una cappa di piombo che incombe. In certi momenti paralizza perfino le persone. Ci sono momenti in cui la tentazione paralizza le persone, le rende incapaci di qualsiasi scelta, sono in preda uno sconforto tremendo. Bisogna rendersi conto che è un assalto satanico. Il clima è di grande oppressione e la cappa di piombo del regno del male incombe. Il sudore di sangue non si comprende, cari amici, se non si fa riferimento allo sforzo supremo dell'anima di Gesù che resiste alla più grande tormenta satanica che sia mai stata scatenata. Cioè Satana nel Getsemani gioca tutte le sue carte per distogliere Cristo dalla passione. E Gesù si sente angosciato, trema letteralmente di paura. È forse l'evangelista Marco che descrive con più realismo questa situazione esistenziale di Gesù nella tentazione. Ed è Luca che mette in evidenza il sudore di sangue. Luca, che è un medico, si rende perfettamente conto che il sudore di sangue è espressione di un dramma spirituale. È lo sforzo supremo dell'anima di Gesù che resiste alla più grande tormenta satanica che sia mai stata scatenata. Non bisogna dimenticare, cari amici, che Gesù era un uomo vero, quindi, pur avendo un io divino, aveva una volontà. Aveva anche un'intelligenza divina, un'intelligenza umana e una volontà umana. Gesù aveva una volontà umana e con la sua volontà umana Gesù resiste alla più grande tormenta satanica, ed è così che ci ha redenti. Cristo ci ha redenti con la sua volontà umana, unita naturalmente alla volontà divina. Ma ha meritato per noi la forza di vincere le tentazioni in questo momento, Gesù, in cui resiste alla più grande tormenta, con la sua volontà umana, unita alla persona divina, resiste alla più grande tormenta satanica che sia mai stata scatenata. Ci sono dei momenti in cui l'impero delle tenebre assale l'anima con angosce, tremori, paure e spaventi. Satana è maestro di questi assalti. Certamente anche molti di voi l'avranno sperimentati, quando Satana sale con angosce, tremori, paure e spaventi, che è impossibile descrivere, ma che hanno ben compreso quei santi che hanno avuto la rara grazia di sperimentarli, perché in fondo è una grazia, perché sono diventati cooperatori della redenzione. In quelle tremende situazioni l'anima pensa di essere abbandonata da Dio, mentre intorno a sé vede montare l'onda cupa del male che sembra inghiottirla. Chi può sapere che cosa ha sperimentato Gesù nell'orto degli ulivi? Il Padre misericordioso invia un angelo dal cielo a confortarlo. Quindi pensate che tremenda prova ha dovuto sopportare Gesù se il Padre misericordioso gli ha inviato un angelo a confortarlo, come dice Luca nel capitolo 22, versetto 43. Forse lo ha prostrato l'abbandono degli apostoli e i vacillari della loro fede. Satana gli ha con tutta probabilità prospettato il fallimento della sua missione e come prova gli ha beffardamente messo davanti Giuda, che lo tradiva col più infamante bacio della storia dell'umanità. Se pensiamo che in quel momento il traditore era abitato da Satana in persona, vedi Giovanni 13,27, possiamo pensare quale fu lo sforzo di Gesù nel chiamarlo col nome dolcissimo di amico, come ci dice Luca 22,48. Che cosa non ha architettato il maligno? Ecco, amici, in questa pagina tremenda del Getsemani, forse alcuni possono anche vedere momenti identici, non proprio identici, ma momenti analoghi, simili. E quando Satana ti assale con lo sconforto, con l'angoscia, con i tremori, con le paure. È un suo assalto. Dobbiamo rendercene conto, perché nel pregare e nel vegliare, che è la vera medicina, la vera arma di questa lotta, possiamo renderci conto che, essendo lui, verrà il momento in cui poi tutto questo passa. E quindi bisogna resistere in attesa che Dio dica basta. Che cosa non ha architettato il maligno in quelle ore per abbattere l'anima di Gesù, per schiantargli il cuore e per fargli gettare la spugna? Mai come in quella notte il regno del male ha dispiegato la sua forza immane. Oppressione, angoscia, scoraggiamento e poi sensazioni di vuoto, di fallimento e di inutilità. Il grande falsario, come suggeriscono alcune anime mistiche, ha insinuato a Gesù che la passione sarebbe stata inutile, perché l'uomo avrebbe continuato a preferire lui, Satana, al figlio di Dio. Ed ecco la dimostrazione. Gli uomini, per amore dei quali il Verbo di Dio si era fatto uomo, avanzano con spade e bastoni per catturarlo come un brigante. Questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre, esclama Gesù. Forse, cari amici, si è insistito troppo unilateralmente sull'assalto satanico del deserto. quando Satana gioca la carta della seduzione, e non si è sottolineato abbastanza l'assalto satanico dello scoraggiamento, o dell'angoscia, o della paura, del fallimento, dell'inutilità, che Satana ha giocato nel paradiso, nell'orto dei Getsemani, che nella intenzione dell'Evangelista è paragonato all'Eden, no? Ebbene, cari amici, dobbiamo, credo, recuperare questa lettura della passione di Cristo come il grandissimo duello fra lui e Satana. Questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre. L'impero delle tenebre, cari amici. Quindi su Cristo, nel Getsemani, come lui dice, si abbatte l'impero delle tenebre. Che la passione rappresenti la più grande offensiva satanica contro Cristo è un'affermazione biblica incontestabile. Sono soprattutto Luca 22,3, 31,53 e Giovanni 13,227, 6,70 ad affermarlo. Testi che abbiamo già citato, comunque voi potete andare a verificarli, che in mano il libro può verificare le citazioni. Però questa, cioè che la passione, la più grande offensiva satanica contro Cristo, è anche la convinzione delle prime comunità cristiane. Secondo quanto ci riferisce l'Apostolo Paolo in prima lettera ai Corinti, al capitolo secondo, versetti 7 e 8. Paolo dice, attenzione, noi parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. In altre parole, Satana, cioè il dominatore di questo mondo, non si era reso conto che, eliminando Gesù con l'infamia dalla croce, avrebbe attuato il disegno divino della redenzione. Dio l'aveva accecato. Dio, nella sua sapienza misteriosa, ha usato il piano di Satana per sconfiggerlo definitivamente e per strappargli il dominio sull'uomo. E questo è il metodo di Dio, cari amici. Usa i tranelli di Satana e dei suoi seguaci per affossarlo e per affossarli. Come è stato possibile questo? Ti rispondo dicendo che ciò è stato possibile grazie alla totale obbedienza e adesione di Gesù alla volontà del Padre. Prima Satana ha cercato di distogliere con tutte le sue forze Gesù dal bere il calice del dolore. Lo ha circondato con i terrori di morte, tanto che Gesù sperimenta una tristezza mortale. L'anima mia è triste fino alla morte. Poi il maligno cerca di distoglierlo dal battesimo di sangue, ormai imminente. Ma Gesù risponde rinnovando il totale abbandono alla volontà del Padre suo. Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Allora Satana si avventa contro di lui con una inaudita ferocia, fino all'ultimo respiro di Gesù sulla croce. Ma l'agnello di Dio si lascia condurre al macello come una vittima di amore per la redenzione del mondo. Quando l'ira distruttiva dell'avversario di Dio porta a termine l'orribile delitto, l'opera della redenzione è compiuta. L'odio è stato vinto dall'amore e l'orgoglio dalla sottomissione umile ed eroica del Figlio alla volontà del Padre. Colui che aveva vinto attirando il primo uomo sull'albero della conoscenza del bene e del male, veniva mortalmente colpito dal nuovo Adamo, che aveva fatto inchiodare all'albero della croce. E quindi, cari amici, il piano di Satana di eliminare Cristo da questo mondo è stato utilizzato da Dio per schiacciargli la testa, cioè per realizzare la redenzione.